Hendrix, Santana, Clapton. Beh, loro sono maestri della chitarra. Amici, fidatevi di noi. Voi non diventerete mai come loro, o meglio, non lo diventerete mai se continuerete ad ostinarvi a voler suonare la chitarra con le dita. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare chitarristi rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un SMS al 335-100-7777 con la scritta rock con la bocca. Sì, sì, non perdete l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Tu chi sei? Il testimone dello sposo. Come ti chiami? Rutto. Il nome per esteso? Ruttolomeo. E andiamo a svelare le carte del test attitudinale di quest'oggi, che si occupava di un record di classifica. Vi chiedevamo quale canzone nell'84 è stata al primo posto dei singoli, degli album e dei film, e l'ipotesi A era The Wall dei Pink Floyd. Suggestiva, ma sbagliata. Ai. E allora forse, come diceva l'ipotesi B, Magic Dance di David Bowie nel film Labyrinth? Ahimè no, non ci siamo ancora. E allora, eccolo lì, Prince. Hai capito, il raccattatutto che con Pulp Rain per l'appunto fu in classifica al primo posto dei singoli, degli album e dei film. Ricordiamo che il film dello stesso titolo, Purple Rain, vinse anche il premio Oscar, come se non bastasse, per la miglior canzone originale. Il brano When Doves Cry vincerà un Golden Globe come miglior canzone originale. Pulp Rain vende più di 13 milioni di copie negli States e rimane per 24 settimane consecutive ai vertici delle classifiche. Solo negli Stati Uniti il film guadagnò più di 80 milioni di dollari e fu il più grande successo cinematografico di Prince. Complimenti a lui, quanta invidia. Infatti, glielo stavo invidia. Chiedendo. Successi sulla strada del rock. Ma noi stiamo al secondo posto. Anche al terzo, anche al quarto. Ma non al primo. Ma mai al primo. Noi siamo con la nicchia. Noi siamo contro. Nicchia forever. La nicchia vincerà e la storia ci darà ragione. I never meant to call you in sorrow. I never meant to call you in pain. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. freedom, but you can't seem to make up your mind. Nothing you better close. And let me guide you to the purple rain. E fatevelo anche voi questo assolo con la bocca. Purple Rain. Wow. Che roba. Era tempo che non mi gustava una Purple Rain così. Il folletto. Prince. Vedo apprezzato il genietto di Minneapolis, anche da Dottor Andre. Ah, che giornata, ragazzi. Giovedì 15 di novembre, iniziata strana e proseguita ovviamente peggio che mai. Un saluto dall'Ariele, da Trombetta, dalla squadra di Pane, Burro e Rock and Roll, che vive in attesa del momento clou di quest'oggi, già ampiamente ricordato agli altri, ma per chi si fosse sintonizzato solo ora, quest'oggi finalmente inizieremo i provini in diretta per sentirvi suonare musica rock con la bocca, una grande iniziativa nella quale crediamo parecchio. Però io, così preso dall'emozione di questa Purple Rain, voglio salutare e stringere forte il radioascoltatore Tony Leso da Firenze. Fratello, ricordati che siamo al tuo fianco e che la nicchia vincerà, quindi puoi vincere anche tu. Sono certo che dove stai andando potrai sentire Rock FM, a meno che non si senta proprio di frequenze, allora lì non ci possiamo fare un granché. Che il rock and roll sia al tuo fianco. Gli affai. Che emozione. Saluti a tutti voi. Enrico, Runner, Metal Chef. Devo salutare in particolare Andrea da Ravenna, Nicolò e Henry, che sono alcuni degli SMS che sono arrivati, che ci aiutano a costruire la trasmissione, nel senso che siete voi a darci grandi idee per le rubriche idiote e stupide che poi vi mandiamo in onda. Confesso anche che originariamente l'idea non è idiota e stupida, è colpa nostra che poi le roviniamo tutto come al solito. 8 e 40 minuti primi, restate con noi, ne sentirete delle belle. Tra pochissimo il provino per diventare musicista rock con la bocca, ma poi c'è ancora Rogna e Frigo. Ragazzi, Pane, Burro e Rock and Roll, puntata 130 da ricordare. I lost my heart. What I found, that blue-eyed girl. Guarda, Frigo, degli umani piccoli piccoli. Quelli, Rogna, si chiamano bambini. Ah, bambini. E perché guardano nelle gabbiette dei crinceti? Scelgono il più carino e se lo portano a casa. No! E poi a casa gli fanno gli esperimenti? No, coi crinceti i bambini ci giocano. Li fanno correre sulla ruota, li tengono come animali da compagnia. Stanno scegliendo quale adottare. Figo, anch'io allora voglio essere adottato. Tu non puoi, Rogna. Tu sei una cavia da esperimento, non un criceto. Ma cazzo dici? Bambini, bambini, guardate qua. Guardate in qua, mi chiamo Rogna. Voglio giocare anch'io con voi. Portatemi con voi, dai, bambini, portatemi a casa. Cazzo, non mi cagano. Fanculi criceti raccomandati, brutti bastardi. Li odio, Frigo, li odio. Maestro Freak, non sto veramente nella pelle perché finalmente possiamo fare quello che abbiamo promesso ai nostri radioascoltatori. Io la conosco, Ariel, lei è un entusiasta, ma stavolta condivido. Stiamo parlando della possibilità di diventare musicisti rock con la bocca, non abbiate paura, ma tutti voi potete diventarlo. Ma certo, ma cosa ci vuole? Senta qua. Maestro, non ci interessa sapere se lei lo è oppure no. Si fermi. Abbiamo... Volevo tirare l'acqua al mio mulino. Abbiamo il primo radioascoltatore provinante. Si chiama Marco e ci telefona da Firenze. Benvenuto, Marco. Ciao, ragazzi. Ciao, ben trovato. Ti sentiamo entusiasta. Marco, sono un po' timido. Tranquillo, Marco. Sei giustamente impressionato. I più grandi musicisti rock con la bocca erano gran timidoni, sappilo. È vero, vero, ma hanno fatto una carriera strepitosa. Fai sapere agli altri radioascoltatori come hai potuto fare questo provino in diretta a Rock FM. Mandando un messaggio a Rock FM, al nostro numero di SMS, dicendo provino con la bocca, provino musica rock provino, con la bocca, sì. Musica rock, sì, è vero, vero. Esatto. Marco, possiamo chiederti quanti anni hai? 23. Bene, arrivi da Firenze, che lavoro fai? Nella vita? Ditta informatico. Senti, sei anche un musicista, cioè suoni anche con strumenti veri? Sì, suono, mi arrangio a suonare il basso. Ah, ho capito. Però vorresti anche diventare un grande musicista rock con la bocca. Solo voi mi date questa possibilità, lo sogno da anni, lo sogno. Caro Marco. Onore al merito. Caro Marco, quanti là fuori ti staranno invidiando in questo sì, momento. Anch'io un po' lo invidio. Dopo, maestro, perché vorrei esprimermi anch'io. No, voglio ascoltare Marco. Ascoltiamo Marco. Che cosa, con che brano vorresti essere provinato, Marco? Direi un classico dei Trooper, degli Iron Maiden. Ah, quindi vai su un brano già edito. Tra l'altro heavy metal difficilotto, insomma, la parte di basso deve essere anche tosta, parecchio difficile. E hai scelto appunto lo strumento che suoni anche nella vita. Con il basso vero sapresti suonarla, The Trooper? Sì, diciamo di sì. Mi arrangio, ma la saprei suonare. Diciamo la verità, tu hai già suonato col basso vero The Trooper. Sì, è vero. Ah, ti abbiamo tanato. Però con la bocca non lo avevi ancora mai suonato. Mai suonato, provato qualche volta, ma mai suonato. E allora, caro Marco, in diretta sulle frequenze di Rock FM inizia il tuo provino. Stai tranquillo, sappiamo che hai studiato. Rilassato, sei preparato, la sai fare, la sai. Quindi puoi dare il meglio. A pane, burro e rock and roll, Marco da Firenze, 23 anni, suona The Trooper con la bocca al basso. Vai, Marco! Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Che è difficile, perché ci sono le terzine. Marco, bravissimo! Sei stato veramente fenomenale. L'applauso dello studio intero, standing ovation. Sono due. Era difficile, c'erano le terzine, maestro. Le terzine complicano. Sono tremende. Marco, guarda, per adesso sei il primo, quindi non possiamo prometterti niente. Terremo da conto il tuo numero di telefono e, come si dice in questi casi, le faremo sapere. Le faremo sapere, ma sei un probabile vincitore. Ti ringrazio tantissimo. Nel caso dovessimo formare una band di musicisti rock con la bocca, tu saresti interessato? Oh, certamente. Marco, incrociamo le dita e speriamo di sentirci presto. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Sei stato fantastico, Marco. Grazie, Freak. Ciao. Abbraccione, ciao Marco. Ciao. Stand, there's no turning back. The viewer serves, the charge begins. and Gentlemen, Iron Maiden. Questa purtroppo è la fine di miei cari amici, la fine di Pane, Burro e Rock and Roll, che tornerà domani. Gli appuntamenti nel weekend: questo sabato mi trovate in provincia di Siena, Colle Valdelsa, al Sonar, per selezionare un po' di buon rock and roll. Suoneranno i Lombroso. E poi mi sono dimenticato di dirvi, che, come un bischero che sono, che domenica invece suono con i Pei in patria, suoniamo nella città di Varese. Se vi interessa, passateci a trovare. Maggiori informazioni sul sito amore.net con due M. Andiamo di sigla. Che puntata la 130, ragazzi, da ricordare, da archiviare, e la troverete su internet tra un bel po'. Pane, burro e rock and roll. Perché oggi già lo so che ritarderemo, quindi vi avviso. La tua colazione roll. Nel pomeriggio abbiamo un po' di cose da sbrigare prima. Burro e rock and roll. Che ci volete fare? Siamo persone impegnate, anche noi rocker. E devi godere. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E dagli dei dell'heavy metal inglese passiamo al principe dell'heavy metal italiano. Troppo buono, puntata importante. Questa sì che è una presentazione, grazie, grazie, troppo buono. Puntatona, sì. È la 130. Sarà quello. No, perché ti ricordi la 130, non so se l'hai mai conosciuta, era l'auto ammiraglia della Fiat anni fa, era quindi l'auto più importante, la 130, quella più costosa. Hai capito? C'era la 126, la 127, sì? La 128, la 29, no, c'era la 130, che era quella da Shuri. Quella, esatto. Infatti oggi è stata una puntata da Shuri. Tra l'altro ti ringrazio, perché chi si è sintonizzato solo adesso non lo sa, ma all'alba delle 7 Marco Garavelli era pronto a fare regia più a Pane, altro a ricevere torte, pasticcini, panna montata, che le nostre gentili ascoltatrici ci viziano. Qualcuno, adesso non ricordo l'SMS, però ironizzava, diceva: oh, ma se vi porto, non mi ricordo se scriveva la trippa o qualcos'altro, ma se ve la porto la mangiate. Certo, mangiamo tutto. Noi prendiamo tutto qua a Rock FM. Tra noi, gli stegisti, eccetera, non rimane nulla. Via Locatelli 1, 20124 Milano. Sentitevi liberi di portare qualsiasi cosa, anche oro, che c'è sotto il negozietto. Compro oro, pago in contanti, che non si sa mai. Garavelli, buona giornata. Meno male che porti il sorriso. Ciao, ciao. Domani.